sì, sì. Eia. K. Oh, signor, adesso me ne vado tutto a domo. E tu dove stai andando? Faccio passo, vado a passare al mio fratello 5 minuti e poi me ne vado anch'io a casa. Ah, K. Yeah, per carità. Potevamo andare lì, K. Non ci ho pensato, Giuseppe. Per la prossima volta, quando, quando capita. Ia, ia. Sì, vabbè. Oh, ia. Informati per quella questione, o Natalì. Se conosci qualcuno, se riesci a farmi entrare dentro, capito? E lì te l'ho spiegato com'è la situazione, com'è andato tutto quell'ufficio. E vabbè, te l'ho detto anche a Coso, mi metto me in mezzo, a Pino Urto, cazzo, dice, adesso vediamo quello che possiamo fare. Sì, l'unico che può riuscire se conosci a lui. A lui già lo conosco abbastanza bene. L'unica che cosa che può fare è lui. È proprio quello lì. E vabbè, dai, adesso la prossima settimana vediamo un po' di andare a parlare direttamente con lui per vedere un po' cosa cazzo ne esce pure. Sì, infatti, infatti. Perché chi comanda è quell'ufficio lì. Solo che Pino non c'è più in quell'ufficio, a quanto ho capito. No, è sempre lì, è sempre lui, è vice direttore, capito? E allora qualcosa la può fare. Distrattamente ce la mette sopra. E adesso vediamo, devo parlare per forza con lui. Vediamo un po' cosa c'è pure. Pino, boh. Io sono qua in Viale Dante, Natalì. E cappa, dai. Ok, dai. 5 minuti e poi me ne vado anch'io, dai. Ciao, ciao. A Giuseppe, alla prossima. Eia. Chi è che fruscia? Chi è che sta frusciando? Ma qual'uomo ne sarai tu e chi non te lo dice, hai capito? Che sei tu? Maleducato. Lei si rende conto, eh? Si rende conto che ancora non sono uscite, non è uscita la graduatoria? Sono uscite? Ancora no, ho chiamato ieri, avanti ieri. Se ne affuttini. Ma fate un cazzo. Carità. Se le avessero fatte uscire su internet le graduatorie sarebbe stata una cosa più comoda. Invece è un cavolo. No, oh, infatti. Poi si va a bigliare in quella roba sana. Beh, quando ti hanno detto che le pubblicano. A metà febbraio. Vuol dire che ancora c'è gente che deve finire, mi. A voi già c'entra, una volta che le pubblicano, poi quando finiscono, subentra chi deve entrare. Non capisco. Oh, signor. Este è un macello. Cavagava. Cavagava, qua non c'è posteggio, rimorcasci vostri. Questo è a lì, come è forte. Vicino a casa sono, però non vi posteggio. So così che mi posteggio e non ho blindata. A me da chi come si è posteggiato un aino, un cazzo. E ho blindato la fate di quella distrazzata, chi? Sì, 9 tendria. Quando fai così ti temo io a te. Arrivi bene, sono un attimo, sta qua fa dalla radio. Uff, mi sta più usando. Cavato un tipo ha parito il VU, ma cosa mi ha detto? Io l'ho messo 200 euro, no, perché non è nuovo qua. Ma guardavo anche 200 euro compreso di spedizione, non c'è problema. Dice, se mi lasci 150 euro compreso di spese, la compro io. Vai già le balle. È proprio vero, io entravo gratis la cosa. Occidentale era. No, ma tengo io. Però quando dice, non va nuova. Infatti. Prova. Prova. Casotto. Un casino, se so fare il vecchio parcheggio, fogliano da una chat. Che è un macello, mi tocca andare a posteggiare a punta di casino. Parcheggia, già è andata lì. Ha fatto un anzi che farà qui. Cosa? Ha fatto un anzi con parcheggia e fare a piedi. Iaia, quello lì è un casino. Noia. Fischiando così. Sì, ecco, così mi metto qua un gomolo. Chi se ne frega, chi se ne frega, tu non è la mia. Cava cava. Ora non le piace se ne fa dire due, su. Perché di Muddu vai? È Muddu. Muddu. Hai capito, Bologna? Ti faccio mangiare il prodino di mamma. Dello. Sì, altro bel Mauro. Allora, cosa fai mangiare il brudino? Il brudino te lo mangi tu che non mi piace a me. Non come mi piace. E allora, tutto bene? Tutto bene quando va bene. Quando va male, lasciamo andare male. Cosa ti dico? Casino, un po' di lavoraccio, di cacca. Vabbè. Lasciamo andare come? Cosa ti manda a peggio? Dimmi una cosa, ma la chiudo che fine ha fatto? Alex. Allora c'è a casa, quello bellino. E quello... lo stanno controllando. Che rotto hai? No, me l'hanno rotto. Eh? Sì, vabbè, già te ne parlo via al telefono, la radio non ti disgusta. Ascolti, lascio che io devo scendere a casa. Ciao. Ciao. Mario, detto Mario. Attento Mario Mau. Mario. Ui, è arrivato che Mario. E lì proprio a Babi. Non lasciati via Alberto, devo andare da un'altra persona e sono ricasato adesso. Okay. Ok, meglio così, no, io appare sia andando tutto quanto bene, ma... Dai, andando tutto bene. E per forza deve andare bene. Per forza deve andare bene. Che è un cassè scelta, ma quello... Qui tu... Ne abbiamo cavato un microfono normale e un vostro... Un braccio ticcato. No, avare, era io di gamba. Mi ha detto una cosa, io Mario, mi sono capizzato. Avete un caldo qui da lampadina che è dentro, no? Ma accendi e non l'avete attaccata, io un altro momento lo fai tu. Un altro momento lo fermo male. Sì, non c'è problema. Abbastanza, sono stato staccato anche da passata. La mattina ne si rugava, se riposiamo un mese. Ma mandiamo il certificato medico alla relazione di lavoro, che siamo malati. Aspetta che attacco l'astro, non visto che c'è domani Mario. Un altro attacco l'astro. Mario. E va. E avanza B perfetto, e attiro intendo B bene, una cannonata Mario. Ok, io intendo, no, avà che riposiamo un mese. Allora l'azione di lavoro andiamo da un medico, ci dobbiamo fare di Chiara, come ti semi malattia. Sì, va bene Mario, dai, ci sentiamo magari stasera, è venuta gente, già ci sentiamo Mario, ok? Ok, ciao Mario, buon pranzo, salutiamo a tutti, ci sentiamo stasera, ciao. Ok, ciao Mario. vuole bene, e tu? Ah, tu sei gonfiato adesso. Gonfiato? In che senso? Con un microfono per amplificato. Beh, come ti arrivo? Bene, però non riesco adesso, con questa modulazione non riesco a riconoscerti. Scatta, bobo, lascia così, ya. Non lo credo. Lascia così, oggi, bobo. Ma in giro sì. Non lo credere a Gio Maria, guarda che sta uscendo male, tutto va ridotto. E per i piatti, buongiorno. A Mario, comunque buongiorno, Buongiorno, sei una bomba, una cannonata, porca la miseria. Con quel microfono lì anche io ti do gli auguri, Grazie, Mario. Adesso non stavo riconoscendo Gio Maria, ma io sta uscendo tutto quanto tipo opaco, ho capito. Oh, guarda, non mi lamento io come sta uscendo Gio Maria, che le antenne sono ancorate assieme, si può dire. Abbastanza bene, vuol dire che non hai accordato bene l'apparato, capito? Avanti Gio Maria. Ehi, lui è che non mi vuole sentire bene per quello, Pagando fai il microfono a prezzecata, va. Boh, non conosce manco più a Gio Maria né a Mario, boh. Un momento, mi sta facendo l'insulina mia figlia, riprendete. Papà, Gio Maria. Dove sei adesso, Leo C? Sono qua, via Brigata Sassari, capisci? Ah, arrivo anche a via Brigata Sassari. Dopo, hai visto quell'antennino come va? Bene. Ma ieri uscivi molto più forte, Giovanni. Perché sono quell'antennino, ma insomma, Leo C. Sì, ma da casa, dopo quando eri in campagna, uscivi molto più forte, capito? È vero, ma in campagna c'avevo l'antenna grande, capito? C'avevo l'antenna grande in campagna. Capito com'è? Forse perché siamo lontani, il QRM sta disturbando e tutto quanto. Forse come io sto arrivando da te, come arrivo da te, ti sentirò molto più forte, capito? Tu sei quasi nuovo come radio, però siccome sei molto USB che stai camminando, per quello, capito, a momenti ti sento bene e a momenti ti sento basso, capito? Vedi, adesso io ti sto sentendo bene, Giovanni, adesso ti sto sentendo bene, perché sono qua in zona... dov'è? Qui per scendere al mercato, quella zona lì, via Umberto, quella zona lì. Allora perché, per forza adesso mi sei uscito nelle palazze, per cui adesso arriviamo tutti bene tu, capito? E nemmeno il QSD si sente, capito? A capa. E allora, tutto tranquillo? Valerio, sì, tutto tranquillo, Giovanni, tutto tranquillo. E domani si riprende a trabaccare, meglio così almeno ci tieni occupati la giornata, hai capito? Dunque riusciamo a buscarci anche un po' di soldi per pagare quel debito a ciuffi ciuffi e sperando in bene, hai capito? Sono fatti vostri, non dire per queste cose, non c'è bisogno. Sono fatti vostri, capito, Giuseppe? E per cui meglio lavorare, almeno uno quando lavora, capito? Uno se lavora deve avere qualche cosetta pure, capito? Quello è un dovere che bisogna fare per forza, e per cui pensa a lavorare, poco la cosa già si paga, capito? Quando c'è la buona volontà non ci sono preoccupazioni, capito? Non ce n'è problema con Alessio Giomani, non c'è problema con Alessio, se non gliele do in questa settimana gliele do alla Russia, ma già gliele do, ma cazzo è quello il problema. Comunque, ma il fatto del discorso è questo, che il lavoro che tu come devo fare, capito? A me no, mi tiene occupato e sto bene io, capito? A me ho respiro aria pulita e tutto quanto. Ma che lo sei? Avanti, vai Mario. Ma di queste cose, meno se ne parla dentro a questi apparati, mi direi, Giuseppe. Un consiglio ti dirò e te lo dà anche Gio Maria, abbastanza buono. Lascia stare, pensa tu essere sana, trovare lavoro, dopo farai tutto quello che devi fare. Ma di queste questioni non viene bene mai di parlarne dietro a questi apparati. E capa, va bene, dai. Ok, io sono adesso in via Pascoli, se per bene mi ascolti Mario, sì. Ma un bambò. Io... stamattina abbiamo messo papà a posto tutto, grazie a Dio abbiamo finito, sono contento. È meglio così. No, sai cos'è? Che stamattina Alessio mi ha detto, dice, anzi ieri mi ha detto, dice, vuol venire? Andiamo a casa di Mario, però c'è anche Gio Maria, no, torno qua. Mi dispiace, se siete già in due. Ho detto non mi do di no perché almeno cosa ci vengo a fare a cosa? A visitare così, ma ho detto no, meglio così, poi ho avuto un altro impegno e l'ho fatto, hai capito? Dunque no, non c'era quel problema, hai capito? Giuseppe, mi meraviglio di te, porca la miseria, c'ho tanto piacere di conoscerti, di vederti. A noi non sei venuto e me lo dici anche insieme con Antonello. Ma Tonero lo sa, Gio Maria lo sa e tutti gli amici ok sanno che la porta in casa è sempre aperta. Ok. Ma la prossima volta, Giuseppe, per quello non ci sono problemi. Avanti Gio Maria. Ok. Bene, bene. Però sei quasi arrivata adesso, riusci. Non sono qua, alla fine di via Pascoli, dai, hai capito? Alla fine di via Pascoli, sto girando per la palestra Munger e sono quasi arrivato al semaforo, però sto girando per lei, hai capito? Guardate come sto uscendo, cioè tutto va bene, dai. Ehi, stai tranquillo, quando esci vai te lo dicono, anche se non lo chiedi, capito? No, va benissimo, tranquillo, dai. Ieri non ti stavo riconoscendo, ti puoi immaginare come è cambiato dalla notte al giorno. Va benissimo a quell'apparato, per cui tranquillo. Perfetto e non c'è da dire niente. Ok, vai Mario. Io in cui vi saluto, ho fatto l'insulina, già l'una meno un quarto, in preparo a fare carica, augurando buona carica a voi e a tutto il Correa familiare. Ci sentiamo questo pomeriggio. Buongiorno a tutti e risentirci. Mario, ci sentiamo a pranzo, ciao. Ciao Mario, buona carica, salutami il cuore e ci sentiamo tutte quante le prossimine, al limite stasera, più tardi, dai, dopo le partite, dopo le 5, ci sentiamo, dai. Salvo la carica e buon tutto, dai, ok, dai, riprendi Gio Maria, che io sono arrivato qua a prendere il fumogeno, hai capito? E d'accordo, va bene. E tanto chiedo anch'io, dai. Allora, buon pranzo anche a te, allora, buon correttivo, ci sentiamo, se coincide stasera. Ciao! Ciao, Giovanni, ciao.